metta ad esempio di lubrificare la destina, Sì, non mi ha dato il burro grasso. Sì, lo sai che era un burro che si piglia da internet, che su che tanti ne... Vabbè che è completo, di altri burro che fa l'applicazione, va a punire la motosega e punta, chissù. Vaggio un po' con gli amici che l'hanno comparato, è grosso, è decentrata, forse sarà un 45, forse, o forse buco di più era, è un promotore un bel robusto, sacchia, mi dai, varo lo galletto, rabbri, i 16 da 3 secca e fatti da motosega e da circuitatore. Sì, era buono, ma non c'è caso tutti chi si rimotore, sono motori generici, che andano e vai andare. Io non lo so tanto d'accordo chi sia, una fascia. Abbiamo avuto uno di spogliatore che non è andato assai bene. Un'Alpina mi pare. No, perché l'Alpina c'è quello buono e quello no. I modelli vecchi Alpine sono mondiali. I modelli nuovi a me non mi piacciono, è tutto plastica, non si vede nulla. È meglio un motore cinese. Sì, a chi si rivede sì, non paghi la metà. Però chissà a noi ti abbia creato problemi. Cos'era quel rumore, sa? Sara? Ma un campanello era? No. Ti stavo dicendo che non avevamo avuto uno di chissi. Cioè, sono altri problemi, non potevo non ne punire più in moto. Sì, sicuramente era questo modello dei primi modelli, no, le prime dei modelli uscite, i primi che si erano soccarra immagini, erano l'Alpina andava via beh, beh. Invece da qui più sono andati e più l'hanno imbruttati. Però non avevo comprato più. E il momento che costava pure un paio di macchine, la macchina bagagli, Sì, e questo che avevo pigliato era una fascia, era, ma non la puniva in moto, non me la penso in quello puni in moto. E ti avevo detto che poteva essere un cilindro. Può essere, ma sai quanto costa un cilindro di chissà, no, due fasce era. Questo era degraziato, ma una fascia che... Infatti non è che sia tanto d'accordo a compararle così. Anche quando li fate nel rifaio queste cose, sono così, quando lo compareci, no, che uno dice, lo sai che la cibagata ci fanno affari, ma non hai fatto affari, anche roba buona, non ti regala nessuno, non ti preoccupare. Quella pure una motosega di uno che conosce, ha dovuto cercare un beccione, ho già la fascia perché era monofascia, era non era però di era di marca questa motosega, sempre se no non punia più in moto, non punia, non sono più tanto d'accordo io, è meglio a due fasce il pistone. Sì, sono bravissimo questo, perché pure le altre marche che andavano è Oliomac da Rui a me, che sicuro andrà a Ziani, però la musica era sempre guida, poi i modelli che più avanti, perché l'olio marchio, quella originale proprio, è tutta canta di struttura in alluminio, è tutta canta è fatta in una stessa maniera, se ne va all'interno non si ne va. Invece la bella viene fatta tutto canto di plastica, tutto canto antifibrante, antifatti, ed era una rottura di balle questa cosa. Ne ha uno babbo, un naro, che spoglia, o la macchina, l'abbiamo portato a posto, l'abbiamo portato un carburatore. Sì, quando sono a posto, direi i modelli vecchi però, modelli vecchi, quando sono a posto viaggiano, vecchio. Vecchio era quello, minimo era, non c'è capito, era un 94 mi pare che era questo. Questi modelli così andano meglio di questi nuovi. Ma no, questi già sono buoni, via. Più là va già consumito, più là me ne piglio uno da 42, me ne piglio uno più grosso, ma manco ne posso fare più travagli. Grande, quando vai un spogliatore buono, ti ripeto, si tagli un filo giusto, che è buono, eccetera, ma non sai quanto arrascia, cavolo! Era giusto, chi penso che bisogna trattarlo con la chiave. Chi sa fare che ci vanno in ripide a quattro? Sì, ne rimuga lo solo originale, lo prendi subito e poi chi se ribadono lo vai viaggiare a quattro vie, tranquillo. E viaggia alla grande, ricordati di non fare mai fili lunghi, perché sennò scalda troppo il motore. Ma a quattro fili mi sa che vibra, io ho messo quattro fili e vibra, un bel. No, il mio non vibra. Il mio non vibra assolutamente. Deve stare attento che ci brucia la pressione puro. Le misure è uguale, prova a misurarle. Quanto spunta? 12 da una parte, 12 deve spuntare sia da una parte che dall'altra a grossi, sempre uguali. Se tu questo non lo vai, quando tu poni in moto a girare ti vibra l'asta. Oggi vuoi sei pari, capito? Come si pari? Però io ho notato anche una cosa, che taglia meglio a 2 che a 4. È molto strano, ma è grande il tuo. No, non è il mio, non è il mio, Antonio. È di un signore che intanto mi chiama, là, per tagliare l'erba. E viaggia alla grande, Non lo so da quanto è, mi sai un 50, 52, Carlo, non 52, lo sai come ti buttano fino a 4? Cavolina, no, non deve vibrare, no, assolutamente no. Cioè, l'uso che ho il tratto, quando mi capite già va, e da un po' quello lo tratta, che lui ha sbagliato in altro modo, l'erbacci e queste cose, ma ti posso assicurare che minimo lo tratta a 4, se no lo tratto a 6, a 8, ma non vibrano, assolutamente no. No, glieli faccio tutti uguali, tira e taglia in una maniera incredibile, qualsiasi cosa cazzo taglio, Io ho tratto la 50, non lo so, poi forse di meno. Comunque ripeto, io l'ho messo pari, filo pari, a 4, ma non ce la fa, 2 taglia con una bellezza. Poi quando mi si spacca uno che rimane a uno vibra, perché purtroppo non ha il bilanciamento giusto, però taglia uguale, finta e taglio, e poi quando si stacca rimango tra i due fili. Uno è anche il problema, che il Romeo con 23 non mi fa queste cose. Non lo so, tu, forse non è noi un 50, mi è una bala, non lo so. La prossima volta, vabbè, ha i suoi anni, capito? C'è quello con manubrio, questo non mi piace, però mi piace quello con l'asta, che è quello normale, il classico dice sfogliatore, ti metti la cinghia, però l'altro con manubrio non mi piace. Sì, no, ne manco io un tratto, no, lo preferisce molta gente, a me no, la verità è mai piaciuto da candecito, mai, uno ce l'aveva anche l'altro. Hai tu dopo, ma cosa cazzo, ma per la fai? A me ne può più mangiare bene che cosa, io comunque tu lo so budratta, appena che pongo in moto viaggio alla grande proprio lì, senza la mano ci devi avere, capito? Perché devi tenere l'acceleratore a un passo e lei tu taglia, lei lo arrascia proprio, però non è mai successo di vibra quando taglio i fili, perché delle volte che ha negato roba grossa però fa vedo, allora ti ritaglia perché ci mancherebbe altro, hai bisogno di una prese, hai bisogno di una cosa in chi a cazzo e taglia, ma se ha gatta roba che taglia, è poco arrascia. Sì, ma infatti, no, già la si dà da fare, dai, hai i suoi anni, sai, avrà 10 anni. Sì, beh, certo, però se tu lo provi, prova, beh, ricordati di ingrassare sempre la testina però pure, perché anche lei si affatica e da voi, a bella che non va già, io Google si avete ingrassato, mi pare strano che vibri questa cosa. Sì, Antonio, a 4, il video uguale, sì, vibra, fidati, solo te l'avrei detto. Rimango 4, cioè sono il vino, lui ha pigiato e diventa di 4, no? E niente, così, non è di sì, che tu cudrugo e poi dici adesso il coso, dal filo, non mi piace così. Quando mi dicevo un tempo, vabbè, ce lo vuole un po' di tu, quando si fascia, si vabbè, avanti a tu. Io la so, adesso manco un quarto. La so, cosa hai recitato? La sera manco potuto riposare, perché la Marina, quello di su, sta facendo la casa nuova. Stai facendo il burotto. No, io il Romeo non è fatto di che c'è vibrazione, no, non il Romeo anda e boh. Grazie a Dio, grazie a Giovanni, è sempre funzionante. L'ombro ci ha già deciso di comprare a Miro e via. Ah, ho capito come ti rubano i due. Oggi compri tu sei buono a 4, però lo metti un filo, lo giri e lo fai tornare indietro. No, io li metto a stella, capito? Cioè, a crocce. Praticamente io entro da una bascia e esco dall'altra, poi entro da una bascia e esco dall'altra, e poi lo chiudo. Capito? Ho capito. È probabile pure che magari chi se lo possa vibrare. No, non ce l'ho io così, no. Io lo uso diverso. No, no, questo qua è di quelle serie di filo, lo inserisci tu. Se lo metti così come stai dicendo tu, secondo me ne esce. No, la testina, quella che stai dicendo tu, prendi un pezzo di filo, praticamente lo giri e diventa doppio, giusto? Metti l'altro, lo giri e diventa doppio, e diventa quattro. No, io no, io praticamente lo passo da parte in parte, capito? Lo passo da parte in parte e lo fai, e vai a grosso, dimmi, vai. Cioè, entro dentro da una base, lo faccio lungo, metti che lo faccio lungo 20 cm un pezzo di filo, lo metto dentro e mi sbucca 10-10, capito cosa ti voglio dire? Però gira equilibrato. Ah sì, certo. Ci proverò. Vediamo. Questa è tu. Vabbè, mi sono uscito dalle 3 di Tomanzano, Dali 3. Poi vai qua, vai là, stanno lì, cioè. Andrei a prendi. Poi via. Cappa. Sto intendendo la ghita, ragazzi. Ma fa dormire stanotte, se la vede il gazzino. Infatti, vabbè, dai, che vi saluto. Se no, da voi domani mi vedo tutto rincoglionito. Fai chi trovo, se ne so, avevamo assicurato un pezzo di partita. Così, dopo mi spiace un momento, mi scuso dalla sua al televisore. Sai che trovo un saluto da Londra, si pensa a un moto di sia, nel caso del curve. Andava, vai, non mettere mai, buonanotte tu. Ciao a tu, e ci sentiamo, dai. Ciao anche a te, Antonè, grazie delle tue chiacchiere. Alla prossimina, avanti, riprendi, ciao. Ciao, lo figurati, quando bisogna riposare, se no non si finita. No, ma io ora Giuseppe mi dice un problema, che da poi mi ne scendo e da poi non trovo più, ma diventa un problema da poi a chi scende, se non entra lì ha tutto un altro, sai, però succede più volte, è così. Quindi al momento che ti accorgi che stai riposato, secondo me è come viene mollato e riposato. Anda bene, ciao, buonanotte. Via, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao. Mi ha salutato anche Sara, ciao. No, senta. Ciao Sara, buonanotte anche a te, ciao. Ciao. Allora, ma sono budratelli. Dice che sono originali e buoni. Chi sono che fa giraggi? Cioè, leni, là, anche bene, io ti dico che sono buone come te prodotti, chi si latta? Sì, no, ma l'Agip è già sempre avuto lubrificanti buoni, non è Agip, Girushell è buono come, Agip, Shell, Bardal, Mottul, tutti i prodotti buoni che si sono. E poi viene un'altra marca che va, nominalmente non ti voglio dire una stupidata, è roba tedesca, ed è buonissimo quello di lì. Due volte me l'hanno portato a provare, ti posso assicurare che era buono, proprio. Non incrociava né candele né nulla. Sì. No, già fanno i prodotti buoni. Però, cioè, se dite che ghiaccio che vende un rifornitore è veramente originale. Non tenete roba infatti va la macchina per un zicco 30 costa 30 euro a un litro e non ammala purtroppo puro sono bravissimo vettori ragazzi che sono si è agitato ora a baita adreso putena la chiraria che si cosa io mi rivolgo e dico ma porca miseria ci compreso tutto quanto quello che volevo ma non si può pagare a tu sai che pure a Renault va via da allora era forse 12,50 e siamo andati a finire a 19. Altre marche, se tu vai a comprarli lì originale, si parla di 30 euro al litro, cioè cose incredibili, ma sembra vero a bufone di Seminoca. Cazzo, è diventato un casino, Non so, Furia. Vabbè, però alla fine non ti barra un motore. A Fipino si è costretto a punire un motore come ti si deve, perché ci sono tanti urli strani, ci sono in vendita. No, su quello ormai la concorrenza è spietata, dai, io cazzo, muro ribetti il ricambio, poi gente che fa via frigorifere e lavatrici, se poi la fa mettere il ricambio di macchina, io dai, non vuoi vici. A chi non lo so, ormai se ne comprende più nulla a me, tutta la roba così, ognuno non fate un mestiere suo, ognuno, proprio per da cosa, sai che c'è cosa, ai nonchi, sì, è funzionante proprio così. Noi se non ci diamo una mossa, tu vedrai la vini che femmola, niente, è fissata. Lugasino bisogna farlo, vi cavare Lugasino che hanno combinato in Corsica oggi, ma casino che hanno fatto, i paratori a manca destra, Lugasino l'ho fatto così, cioè basta, devi andare la volta e fatti il TD, stai rompito le palle, cazzo di anno, ti buttano la fame così, burlette esagerate, gasolio che andano in stelle, e gas, e la roba di magnata, dai, io, per gente mi sono pensionati, porco Giuda, che un altro poco e sono la fame, e dai, non un briciolo di umani, dai, tagliati, capo. Siamo andando alla fame, siamo andati. Per carità, non devo rimandare. Se invece tutto un paese da me ribellati, boh vai, non li bigliti, vai e impicati. Io sai cosa più faccio? Non la più nemmeno. L'abbiamo pigliato a me, se tu li buoni mano a me. Ti biglio, ti porto un recinto, no, metti buoni un bocco, se ti dà un po' 30 in giro e li fai travagliare tanta lì. Così impari, a vai vedi cosa vuoi travagliare. No, si è fusato in poltrona, ti viene di 50-60 milioni euro al mese e la poi ti da putre balle, i pesa non li pagano. I viaggi non li pagani, aereo non li pagani, e luzzi non li pagani, e vanno la cuoca, e vanno chi, tu se non ti ne pesi, gana o non gana, non mangi, poco di dirà, e non mesi corrimi, e li pesi mi so. Li pesi, ma è te, ma non fa vedi. Da voi chi ci si danno le pensioni, i giovani possibili, se vanno un mese di là, che lasciano il migliore, tutte le altre famiglie, tante. Quasi me fa tutta la vita, l'ultimo assante. Sì, tu hai i figlioli, i parenti, sono tirati le madri di casa, di macchina, di rotto, di camper, di vacca, tutti. A chi da quella musica è guida, capito? Cioè è normale che in Givi è una giostra a paesi, no? Perché no? Se tu andi e ti compareggi una cosa, arrivi subito all'ufficio di entrata e vuoi sapere che ti ha dato dei biliardi, perché questo, perché quello e perché quell'altro, ma va a fanculo. Cazzo, uno ha travagliato la vita, da me va a fare cosa? Ah, che non andare in obiettivo di fuoco, cazzo c'è niente, ma carità, ma no. Non si può più, no veramente, cazzo, non si sa manco più che fini, lui apre ma pensione, mi sarà tutto e boh. Tanto non ne vuole più la bene manco della maglia. Ma il problema è sempre chiuso, se ti aumenta nella cosa, non ce la fai, perché poi devi di buon incontro, che quando hanno in pensione, sei a mano, la ciacchi di so, ti sevi una visita, una cosa, te la rimandano a mesi, allora ti tocca andare a pagamento, quindi ti sa pensione della trasassineggia, hai bisogno di una medicina e ti tocca comprare la tira. E ce l'è pesante, non è. Io intendo gnadì, gente che si lamenta e dico cazzo, Io comprendo, ma non so cosa va, cioè purtroppo siamo andati da mare in peggio, si è fatto un trapporto a fondo della Grecia, a noi si prende pure un becchio. Così, altro. No, non si può più andare avanti, no. È sempre peggio, è sempre peggio. Cazzo, siamo arrivati dopo il 22, con le guerre, con i gazzati, coronavirus, corona qua, corona là. Ma quando è che cresciamo un po'? Cioè, ma è fuoco di casino. Mi sono svegliato a Baruguro, Manavana, comunque a me è stata una cosa, se mai di qualche sia, beh, da chi... chi non è venuto una sorta di biglietto da Baruguro, non è un'influenza normale, chi da che avremmo sempre pigliato, però a Vara fatene passare a Paccovi, si trova a Baiti pieno di gente che dice si è pigliato il Ugovi, Lugoso, non è vero niente qua, non è vero, è un'influenza normale, però loro la fanno passare per Covid perché prendono soldi, punto e basta. Quindi si anda a finire in ospedale in chi sono 4.000 euro lì, si può in terapia intensiva, sono 9.000 euro lì. E i dottori di famiglia la prima cosa che ti dice, ma secondo me guardi conviene andare in ospedale, tu buco d'accordo, a chi si no, ti curi a casa, dagli antifiammatori, ti buoni inghiere, tre detti e basta. E l'influenza che avevo pigliato tra la vita dei minori che hai giocato, che hai fatto, ma arriva la sua papilla, no, ha fatto tu quanto gofi, no, che è tutto gofi, qualsiasi cosa che muovi è tutto gofi, ma vediamo sì o no. E la gente purtroppo una volta che non capo non ha ragione, se si fare questa cosa, e ti oscilli, ti tassilli, che vai che c'è un problema, non dici più, alla fine che sei pure un malato immaginario, no? Capito? Cioè basta, sai cara, sei forte, chiuda nella televisione e abita da nati. Cosa è bilato? Un raffreddore, ok, bevi una bacchia e si vanno nati. Mi dici da Ricoipitalia, da fatti la doccia, ci si curva diffusa, eccetera, quando fate nei chissiditi poi rimane, e la gente subito si poggia, si guarda, da bevi quel potente, poi me ne già, e subito la prima cosa noi dici, porta miseria, noi diciamo, ma oggi piano con il cutaria, faccio un po' pure il capo, faccio mai un gol, a chi lo va appena al cervicale, chi dà appena il giro, eccetera. No, avanno, no, chiamano dottori, cos'è? Ferma tutto che copi, subito chiama la TS, segnaleggiani e diventa una delle novelle, diventa, ma ne la fine così o no? Mia da Baruguro, cioè, ma arrivi dal 2022, cazzo, niente, non cresci mai di gabbo, no. C'è sempre gasini, guerre, di tutto. Ma va, aumentando i prezzi e tutto. C'è un gas che sta a dare stelle, ma torna l'assamento da domani. Da voi, cioè, non so arrivare di bombola, che se sono tutto a farrende. C'è un casino di intende. Ma si può arrivare al 2022, sì, come ti viviane, negli anni 50, negli anni 70, cioè che vede guerriglia mi ha di, sembra rimanere a queste cose. Davvero, tornano a metà pure un caso. Aumentando, la scorsa settimana domani muro. Cazzo, bello brutto, siamo arrivati, oia. Attraverso, ma rivende un punto che adesso fra un po' cominceremo con le guerriglie, con i casini, come eravamo negli anni 70, uguale, né più né meno, cioè, ma si brucia con queste cose, cioè invece il sappi in parte siamo arrivati dal 2022 ad essere un pochettino più ragionevoli, stare più in faccia, siamo diventati meglio di prima. Ma cosa siamo combinati? Ora, da voi vai a vedere, l'Italia va 4 mi sbaglio, 6 gasdotti, sono asciugati e sono posti in ghiaccio, sono trattati, ma che non azione deve funzionare? La base così, di lugar, non è frega niente. Sono in ghiaccio, le piattaforme, l'hanno pure intervistati, sono asciugati, in ghiaccio, mullati, ma come le balle mi passa? Porca miseria. Sono ignoranti, sono ombre di ignoranza, non comprende nulla, qua veramente non si sa come andrà a finire, ogni adì è sempre bello, ogni adì è sempre casini, ogni adì è sempre problemi, ma non devo rimandare. E se non riesci a venire chi se ne ha fatta? quante ore di cose ti toccano i 21 litri di poi io, ma è una cosa che non si crede. Allora, cioè se vuoi indovinare, a casa mia quasi 130 euro di gasolio, 30 o strada, che ci buciamo le bombole. Cioè, ormai 128,50 di gasolio. Ma siamo buffo, quasi 130 euro. È un casino, un casino. Quanto costa va la bombola che andrà a bocci? A domani c'è la bombola elettrica a 29 euro. Cioè, ma siamo mancanti o cosa? Una bombola elettrica. Cioè, ma dove vogliamo andare? È un casino, è un casino, un casino. Purtroppo non ne voleva manco e ne ricomparava poi tutta. Ma ti credi esagi, anche da voi come italiano non travaglia, invece di buoni di vendere i detti, ne vendi zinco, cioè la metà, e perché la gente si può una gubbia in più, se va freddo non attende ciuffa. Che ci può comprare? Sì, certamente che sì, certamente che sì. Dico che magari il ciuffa, se la segna un'ora, va a segna un quarto d'ora. Quello che insomma... No, non andare mai che si cose. Io spero che veramente, come ti hanno detto, abbassano appena al CISE, ma cosa non si può, è terrificante questa cosa. È terrificante. Sì, ma non hai compreso, l'accise è l'IVA, cosa ne fai di chi? Ma non la pagano altri luoghi, ma noi no, casemmo, noi paghiamo tutti, no, tutto lo pollo, tutto noi paghiamo. Allora non paghiamo tutto, cioè, tutto canto di cose, ma non è che bisogna di cose così care, è che bisogna pagare a chi si fa assaggi, il gatto, i cani magnatori che si pigliano stipendi a macchine, se si aveva pigliato la manco una mendai. Di che sei cose, sai quanti dinari verranno rimasti in cascia, tutti gli altri sei cose non verranno iniziate, cazzo porta a borsa a 9.000 euro in stipendio e più, ma non ti vuoi mandare? Eia, si vuoi c'è nella scorta, tu cazzo tu bagazzo, e che paga anche i pantaloni, e beh, normale. Ah, va, non si può più, no, cioè, siamo veramente scendi di gabbo, no. Non si può più, non è di guerriglia, non è di casini, ma le bombole, di che arrivi un camion stasera, però si sa che andrà a arrivare su un carri, qualche bel casino, cioè, oh, ma come ti fa, ma dai, ma manco di gas, cioè, veramente, oh, schifo, cioè, ma se ma buffo, ma arrivi cazzo, siamo 2022 ancora 15 cose, ma roba la macchina. Sì, cosa trattate voi? Che siete da Wuhan Gas? No, la Liquigas, va bene, mo. Liquigas non è l'onga vicina ai rioni? Sì, però la va verso lo stoccaggio in Chivi. E da lì dove la Wuhan Gas, perché sì, verso lo stoccaggio, beh, non c'ho piena di più bombole, ora arrivi da San Rocco. Puro, figurati tu. No, a Chinoga io so qua attaccato la fiamma Zaglia, no. Però in Chivi no, fateni solo manutenzione ai bomboli, tutta quanta la roba te l'hanno in buccia da Giosso, a Pusdorra, in Chivi la buttano gas. Sì, te l'hanno in buccia da in Chivi, te l'hanno in buccia da. Incredibile, ragazzi, incredibile, abbaia, boh. Allora che sta a buttare un gas in Oga, porca miseria, funzionava, mica, che funzionava, boh, ha serrato tutto quanto di buro. No, la fiamma ha serrato, la buttare un gas di Andendi, arrivi da nave, da Algeria, a caricare un gas. Eia, no, ha sbagliato io, ci sarà sbagliato io, la fiamma ha serrato. Ha detto, di Noga, non viene serrato, io conosco la Vitravaglia, in Diva, ha detto, noi la Vitravaglia in Diva, però su decisioni che ne piglia due, di sarra tutte e basta. Perché so, qua è il gabbo. Allora, sai quanti voci, stop gas, cioè, che non va via, non arrivi alla nave, quanti voci, non va via le bombole. Oh, Figura, io credo che me lo faccio io vero, ragazzi. Vabbè, noi di cosi fermi, di non pigliare lo caso, che vedrai più appuntata di mano, in un attimo era stata in onga. Niente da fare, niente da fare, non va niente da fare. Così qua è buono, la centrale di che è buono che viene in onga, a Fiume Santo, la stessa cosa, è la stessa cosa, che si faccio comparare lo Gaibon in Oga, in Sardegna lo vado in arrivita pure. Oh, ma che dai, tutto un caldo, wow, un macello che non si può dire, non si può. Oh, sì, ma che dai, l'abbiamo a 2 miglia. Andiamo, vabbè, cazzo te ne puttana sarà stabilmente, no? Andiamo a buttare gas e lasci a Cagliari. E a voi quando non ve la fate ne è vero che se non arrivi la nave a caricare un gas, a che me ne c'è fatto il tempo feo e cose, un po' di problemi. Quando è freddo, in chiave, a che da bere, a voi cosa fate? Ve la abbiamo a 2 miglia, che sono reddi. E a voi vuole autogas a rifornire. A chi fanno un altro tipo di bambola ancora? Tu la vedi da un casino che va in chiave dentro. Io vedo però che continuate, dico, quando mai una cosa che funziona da Sarri, cioè siamo a prendere un caso, così accanto che ne prendiamo il battato che vogliamo lasciare, ma lo caso è una cosa che si tratta, che vanno tutti, niente da fare, a chi tu fate il conto, buono, tutti quanti che si che paviani gli impianti a casa, tanti che si cose, chi so, più li cambia, qua perché li cambia, no, cari, mi dico, gli arriva la dettorra e non ve la chiudia, niente, è giusto da domandare, ma ha detto no, chiuso, fermo solo manutenzione di bombo e buono. Lo so, Guglia, saranno tutto. Solo l'officina vado. E le bombole. Pure lì viene le fiamme che sono il continente, compreso. Sardegna e continente fanno la manutenzione. Ma guarda, uno schifo, eh. È veramente uno schifo. Davvero è aggiunto che a me, quando succede nei casini, ma poi cosa fate? Siccome intendi vanno il bombole butta in caso di essere riempiono loro, però se vi dà vanta di da Zanetti quando vi sono problemi, compreso un bel casino vanno. E l'altro che è vicino a Sere Mediterraneo, chi vi, come si chiama? Testoni, come si chiama lì su? Chi fa questi bombolinieri? Andy? Non è un altro, no, fine vera in Ocara, la Fiamma 2000 e un altro all'altra bassi, per andare alla Sera del Mediterraneo. Quindi era un altro in chi che vende i bomboli. L'Agip. Ah, l'Agip, figlio. Chi sarà Gaggiari? L'Agip, perché l'Agip qui c'è un po' di voce da in chi scende le gambe con i bomboli. Sì, già è in chi vera. In chi vera. Ma chi si arriva da Cagliari, sto facendo solo stoccaggio io. Ah, chi si arriva da Cagliari? E allora, come te prendiamo la cosa, la liquigas? Piglia l'articolato e ti si buttare in obbia. Cioè, ma sono in difficoltà, cioè, perché soprattutto loro liquigas, che hanno, devono rifornire molti rivenditori. Vedo un casino, non va via una bomba nel stabilimento, cioè un casino niente, cioè se non arrivano 2 o 3 articolati a caricare tutta l'altra parte della Sardegna, a parte di chi c'è? Quindi è un casino pulinghiere. Un casino solo, ma come ha fatto un freddo, se no è stato di guai seri. Infatti, pure visto, se no c'è veramente un problema. Cioè, avevate un sacco di ghisi cagati, gli stabilimenti andavano in verso, ma fa cosa hai serrato? Che ti sarà un'impressione di sarriani, ma non paga cacchio dipendente in manco. Ma va. Sì, chissù, ma le yoga, se tu abbaiti, tutti hanno fatto la stessa cosa, la stessa cosa, non saranno nulla, sarra che d'altro, ti piace la gomma e sarra, che la fibra e sarra, e poi una cosa sarra, e poi carichi la miseria, grazie, e dopo inarichi la roba da fuori. E allora, questo è il zapato 1-2. No, non si bocca, non si bocca, veramente. Noi no, Garugo di Mari, come te, non era stato nessun problema per la stato, come te era una volta, no, quando andati alla grande, alla raffineria, che arrivano i sinavi, mani, porca miseria, vabbè, da un montinaggio è diventato. E anche non lo gioco, cioè, non abbiamo avuto problemi di nulla, cioè, una roba da macchie, cioè... Dopo l'altra arriva in Tauristano, cazzi bomboli, chi si grigge. Pure Bosso d'Oro è diventato un casino, diventato, cioè da lì si è arrato un poco di loghe. Sì, sì, è grande, è grande, cavolo se non è arrato. E lì si disoccupa di gente, prima i loghe, i nave, arriviani in Ghibri Casieria, che arriviano in Antari, Coria di Castagna, in Ghibri, vedi io, bello in Ghibri, io trovavo in Ghibri oggi, e quindi li vedevo. Nulla, va, nulla, tutto, niente, no, non fa nulla, non fa niente, tutto non è tutto in terra. Qualsiasi cosa arrivi da lavoro oppure via, soprattutto a chi no, che poi in Portogallo non è che sia tutta una tagliata gran manovra, no, che arrivi poco e nulla rispetto all'altro. Prima sì, quando non mollo nostro a Pacena Olbia, avevamo già preso in pazienza. No, no, sì, è tutta a Cagliari, tutta a Cagliari, e non che ti hanno abbandonato, Zane. Che varia un pezzone, che varia. Sì, chi c'è sempre la politica, amico, chi c'è sempre politica. Invece di quando gli stessi politici grani di noghe, gli stessi politici che erano di questa zona, alle lingue di lungo, tutta a Cagliari. Sì, anche da voi, si sono venuti tutti, sani venuti da voi, sani venuti tutto mi dovevo aver venuto, si erano venuti. Allora, arrivi solo la mamma, arrivi nella nave a caricare un gas, alla puttana gas esclusivo, e boh, è cacata la cosa, ma non è che arrivi tanto, oramai è diventato un casino. Sì, sì, sì, sì, sì, ma tu vedrai che se continua così, di chi tu basso saranno chi sa pure, da poi ti bocciato la taccaglia e fateli viaggiare l'articolato, da poi arrivi a tenere i bomboli. E allora, grazie alla gamma Ghisi, ma forse butta anche se è più basso di Cazzona, compreso. Anche in chi gli stabilimenti con i denti conto, quando vedi che la cosa nelle mani deve venire a casino, deve finire tu e tu, insomma, dai. Delle gente in mezzo di mezzo ha bisogno in giro, pigliano un sacco di dinà, pigliano e gatto la pone sempre bonitare dall'uno all'altro, ecco un diero problema. Sì, sì, sì, in Ghibri che accomanda, insomma, di là, non fa niente da fare. In Ghibri, prima che si ne pensa, chi va di là e poi un po' di là corri, tutti quanti buoni a prezzo. Non è che ti dici, ma di cosa si vende, magna di là, no, tutti buoni a prezzo. L'interessante è che di là si trova nulla. Una massa di delinquenti, insomma. Beh, Antonio, mi ha fatto piacere che ci ha incarcerato, dai, avanti, dromo, non mi ha mandato ad andare a travagliare. Buonanotte, mi ha fatto piacere, buonanotte, ciao. Mi gioco dormendo, mi gioco. Ehi, tranquillo, Antonio, ciao, buonanotte, tranquillo, già ci sentiamo alle prossime. Ciao, buonanotte.